come in molti altri programmi, si tratta di indicazioni generiche che poi dovranno trovare concreta, diciamo, attuazione. E noi ci auguriamo che l'attuazione, diciamo, di questa volontà espressa con il programma politico in materia di immigrazione venga fatta appunto nella maniera migliore. Per noi ci sono sicuramente dei punti molto importanti che riguardano sia le politiche interne, diciamo, nei confronti di coloro che sono già in Italia, sia le politiche esterne, cioè quelle volte all'ingresso, diciamo, delle persone in Italia. Per quanto riguarda i primi, c'è da prendere atto del fatto che da quando è entrato in vigore il cosiddetto decreto sicurezza, decreto legge 13 del 2018, c'è una situazione che sta diventando appunto esplosiva, cioè ci sono molte persone che stanno sempre più cadendo, diciamo, nelle irregolarità. È una prerogativa praticamente del vecchio ministro dell'interno, di fatto lo era, e questo sicuramente appunto deve essere totalmente rivisto. Noi auspichiamo, essendo stati sin dall'inizio contrari a quella ipotesi legislativa, che quel decreto sicurezza, il primo decreto sicurezza del precedente governo, venga praticamente abrogato e posto appunto nel nulla. Non si può pensare di governare il fenomeno dell'immigrazione rendendo irregolari le persone che sono già regolari appunto in Italia, o rendendo particolarmente difficile, diciamo, la loro condizione appunto in Italia. Bisogna poi farsi carico delle tante persone che sono oggi in Italia in maniera irregolare e che hanno un apporto concreto, significativo, diciamo, nell'ambito della nostra società. Sotto questo punto di vista ricordiamo che sono ormai 7 anni che non c'è una legislazione che provveda alla regolarizzazione, e che dovrebbe essere non soltanto attraverso un provvedimento di sanatoria, ma attraverso un meccanismo che consenta la regolarizzazione in termini costanti delle persone che sono appunto irregolari, ovviamente a determinate e chiare condizioni. C'è il tema degli ingressi, che è fondamentale, che comunque appunto si lega al primo. Occorre provvedere affinché vi sia la possibilità per le persone di entrare in Italia regolarmente, anche per poter poi successivamente appunto acquisire un titolo di soggiorno, quindi attraverso il lavoro, un'integrazione appunto attraverso l'integrazione sociale. Questo comporta la modifica del testo unico dell'immigrazione, quindi occorre in qualche misura sicuramente dar luogo appunto a nuovi decreti flussi, ma contemporaneamente superare la politica appunto dei decreti flussi, permettendo che vi siano, come si diceva prima, degli sponsor, dei soggetti che possano effettivamente appunto far entrare in Italia appunto le persone straniere, e poi appunto queste persone possano essere appunto effettivamente regolarizzate per motivi familiari, per motivi di lavoro oppure per motivi di protezione internazionale. Occorre riprendere la discussione con le istituzioni europee in ordine alle politiche di search and rescue nel Mediterraneo centrale, perché è una politica che è stata dismessa dall'ultimo governo, anzi è stata, come evidente, profondamente appunto contrastata, mentre questo invece è un compito, quello di salvare appunto le vite delle persone in mare, è un compito delle autorità pubbliche, non prima delle ONG o dei privati e poi delle autorità pubbliche, ma è innanzitutto un compito appunto delle autorità pubbliche. Questo va messo in relazione ad una forte iniziativa politica del governo italiano rivolta alla riforma dell'attuale regolamento Dublino, che riguarda esclusivamente le persone che richiedono lo status di rifugiato o la protezione internazionale. Sotto questo punto di vista il governo italiano attuale dovrebbe farsi seriamente appunto carico di sviluppare la proposta che il Parlamento europeo ha approvato già l'anno scorso, anzi quasi ormai 2 anni fa, e questo appunto è sicuramente prioritario se si vuole che il fenomeno sia un fenomeno effettivamente governato a livello continentale e che non rimanga appunto esclusivamente in carico ad alcuni singoli paesi. Quella proposta del Parlamento europeo, per quanto perfettibile, è sicuramente appunto un ottimo punto di partenza. Ancora, diciamo, un'ulteriore questione che occorre sviluppare è quella quella che attiene, diciamo, alla garanzia dei diritti sociali delle persone straniere che sono in Italia. È impensabile, appunto, noi verifichiamo come soprattutto, non solo, ma soprattutto nel sud Italia vi siano delle condizioni di sfruttamento lavorativo, in particolar modo nel campo dell'agricoltura, ma anche nei settori, in altri settori, in particolar modo in quello della ristorazione oppure in quello dell'edilizia, senza che in questa problematica sociale veramente, appunto, molto molto rilevante sia stata fatta oggetto di una azione politica consistente nel corso degli ultimi anni. Non è più possibile, appunto, vedere ghetti, insediamenti informali che dalla Sicilia alla Basilicata, alla Puglia, alla Campania, al Lazio, alla Calabria proliferano, e evidentemente, appunto, non è possibile affrontare questa questione pensando di sgomberare, appunto, questi luoghi senza fornire contemporaneamente delle alternative, appunto, credibili per queste persone, che sono persone che fanno funzionare una parte molto significativa del tessuto produttivo italiano. Un'ultima battuta che, se vogliamo, è collaterale ma collegata ovviamente a questo tema, quella che è riassumibile nel concetto di criminalizzazione della solidarietà. Ritorniamo quindi, insomma, ai decreti Salvini e non solo. In questi anni abbiamo visto una sorta di conflitto tra quella che poi è diventata la legislazione italiana e quello che è il diritto internazionale e anche il diritto del mare. Questa cosa deve risolversi. Questa cosa, diciamo, che deve risolversi con azioni, diciamo, concrete. Da un lato ci sono delle azioni che sono di tipo legislativo. Il decreto sicurezza bis, il decreto legge 53 del 2019, quello che proprio criminalizza formalmente le attività di soccorso e salvataggio in mare, va indubbiamente abrogato, perché è incostituzionale, è contrario alle norme, appunto, di diritto internazionale sulla salvaguardia della vita delle persone in mare. Questa è una questione che va bene al di là della vicenda delle attività di soccorso e ricerca dei migranti, appunto, nel mar Mediterraneo. Abbiamo effettivamente assistito ad una forma di criminalizzazione sia delle migrazioni sia dei soggetti che supportavano, appunto, i processi di integrazione, diciamo, dei migranti, appunto, in Italia, che era una politica conseguente alle politiche di proibizionismo e di chiusura in questa materia. In realtà, in questi ultimi anni non si è voluto affrontare, diciamo, il problema, ma si è voluto amplificarlo. Nell'amplificare il problema si è fatto sì che, appunto, tanti soggetti subissero un processo di marginalizzazione e di criminalizzazione, quello, appunto, che passa come il discorso d'odio, diciamo, generale che è stato sviluppato nei confronti dei migranti e che ha portato a numerosi atteggiamenti di razzismo diffuso nell'ambito, appunto, sociale. È evidente, sotto questo punto di vista, che ci vuole una visione politica, una visione di prospettiva, una visione del futuro che guardi alla integrazione delle persone, alla convivenza dei vari soggetti che compongono il tessuto sociale. E questo deve essere fatto, a mio modo di vedere, anche attraverso un rilevante coinvolgimento delle regioni, le quali, appunto, sono le istituzioni che poi concretizzano tanti dei diritti sociali delle persone in Italia. Perché è assolutamente questo il punto, cioè fare in modo che i diritti sociali siano non soltanto scritti, diciamo, sulla carta, ma effettivamente garantiti e fruibili, diciamo, per le persone. E questo si può fare con un'azione istituzionale, diciamo, appunto, ampia, che quindi ponga nel nulla le basi dei discorsi di xenofobia che purtroppo, appunto, siamo stati abituati troppo spesso ad ascoltare negli ultimi anni.